Italia in controluce. Lo so, quest'oggi farò arrabbiare i militanti del Movimento 5 Stelle e mi dispiace, qualcuno dice che la stampa che in qualche modo fomenta la critica, la forte critica nei confronti del Movimento 5 Stelle, ma io dico che, e così l'ho titolato, quest'oggi, che secondo me quello del Movimento 5 Stelle è stata la fine di un sogno, perché il Movimento 5 Stelle era partito per realizzare un sogno che molti italiani avevano nel cassetto da anni, me compreso, cioè cambiare anche in modo radicale, ma certamente pacifico, l'intera struttura dello Stato, le regole, eliminare la burocrazia, gli sprechi, la corruzione, sostituire con l'etica e la moralità quello che purtroppo abbiamo visto di peggio della politica. Sostituendola con che cosa? Con qualcosa che aveva a che fare con un programma. Questo programma è stato presentato, sulla base di quel programma il Movimento 5 Stelle ha preso moltissimi voti alle ultime elezioni politiche. Ma il sogno si è infranto in pochi mesi e da quando in qualche modo non c'è stata una svolta di cambiamento vero, fino alla discussione, devo dire, abbastanza insopportabile sulla diaria, fino agli altrettanti insopportabili strali di Beppe Grillo contro i militanti critici alla ribellione di massa. Io penso che quando c'è un movimento, in un partito c'è poca democrazia, quel movimento e quel partito è sostanzialmente morto. La morte è apparente, cioè quando qualcuno decide di cacciare via, come nel caso dell'ultima vicenda di questa 48enne che ha osato dire ciò che pensava giusto o sbagliato, però quando in un movimento, in un partito, qualcuno viene cacciato via, io penso che lì non ci sia più democrazia. Voi che cosa ne pensate? 349-238-6666. Perché dico questo? Perché abbiamo voluto dedicare alla fine del sogno del Movimento 5 Stelle questa puntata di Italia in controluce, sapendo di far arrabbiare molti militanti del Movimento 5 Stelle, ma noi facciamo i giornalisti e non è che ci divertiamo. Notiamo questo e purtroppo è quello che noi vediamo. Aggiungo anche che gli ultimi dati, quelli che abbiamo visto alle elezioni amministrative del Movimento, ci dicono che qualcosa fosse cambiato nel rapporto tra italiani e questo movimento. Ma perché oggi può essere veramente la giornata della resa dei conti? Vincenzo Miglietta? Sì, buongiorno Daniele, giornata della resa dei conti. Innanzitutto ricordiamo che l'appuntamento per l'assemblea di deputati e senatori del Movimento 5 Stelle è fissato per le 18, si deciderà dunque il destino politico della cosiddetta dissidente Adele Gambaro, senatrice che, come hai anticipato tu, nei giorni post le ultime amministrative aveva detto il risultato è figlio degli attacchi violenti, tra virgolette, di Grillo sul suo blog. Di qui le forti polemiche che hanno accompagnato gli ultimi giorni, la richiesta di una fuoriuscita della stessa Gambaro dal movimento. Quindi oggi deputati e senatori ne decreteranno il destino, ma in gioco, secondo molti, oltre al destino della Gambaro, c'è lo stesso futuro parlamentare del gruppo che fa riferimento a Grillo. E quindi in queste ore è tutto un seguirsi, un susseguirsi di contatti tra senatori, deputati, c'è un forte lavoro sotterraneo degli elementi più rappresentativi del movimento, ricordiamo anche il sindaco di Parma Pizzarotti, perché alla fine si possa raggiungere quel compromesso, Daniele, che eviti strappi improvvisi, e lo sappiamo bene, in questi casi sono strappi che non si sa dove vanno a parare, cosa ne potrebbe essere del futuro proprio di legislatura del Movimento 5 Stelle, e quindi le idee soprattutto espresse attraverso Twitter in queste ore sono molto discordanti da parte dei deputati e dei senatori proprio del Movimento 5 Stelle. Il capogruppo alla Camera Nuti ammette che ci sono diversi mal di pancia, ammette anche che alcune persone potrebbero lasciare il Movimento, ma questo, spiega Nuti, non deve preoccupare né gli elettori né gli attivisti. Il vicepresidente della Camera Di Maio, solitamente molto attento alle parole, parla apertamente di compravendita di parlamentari e quindi fa capire della necessità di una pulizia all'interno del Movimento. Ma come dicevamo, le idee, le prospettive sulla Gambaro sono molte. Il senatore Buccarella dice: siamo in guerra, mi aspetto le sue dimissioni. Dall'altra parte Bencini dice: siamo 53 al Senato e rimarremo 53. E il deputato Currò dice: voterò contro l'espulsione della Gambaro. Quindi tre idee sostanzialmente diverse all'interno del Movimento. Quindi, Daniele, veramente c'è molta attesa per quello che succederà alle 18, e da questa decisione sulla Gambaro veramente potrebbe derivare le future mosse parlamentari del Movimento 5 Stelle. Avevo detto che facevo arrabbiare qualcuno, sono molto contento quando faccio il giornalista e dico la verità, e tutte le volte che mi è capitato in tantissimi anni occupandomi di inezie, diciamo dalla strage di Bologna a Ustica, a Moro e a tante altre vicende che rispetto a queste sono di una banalità veramente sconcertante, mi rendo conto che tutte le volte che qualcuno fa il giornalista e lo fa per davvero, cioè va in radio e dice la verità, poi gli capitano queste cose. Allora c'è per esempio un certo Maurizio che dice: non preoccupati, presto arriveranno le azioni legali contro i giornalisti gossipari, cioè contro tutti quelli che parlano contro qualcuno, e noi siamo qui ad attenderle dunque queste azioni legali, queste minacce, diciamo, che qualche ascoltatore ci fa. Ma poi ci sono importanti e belli interventi da chi dice che la stessa cosa è successa anche con Fini e Berlusconi, ed è vero, Berlusconi cacciò Fini, e anche quello fu un momento in cui il Popolo delle Libertà proprio in quel momento cadde direi abbastanza in un momento complicato della sua storia, cioè, e questo dobbiamo dirlo, finché c'è un'unità all'interno di un partito o un movimento c'è anche un'unità di tipo politico. Quando qualcuno se ne va vuol dire che ma se ne mai così in malo modo cacciato, cioè, ma questo vale per tutti i partiti. Giovanni da Viterbo dice: in casa mia abbiamo votato il Movimento 5 Stelle, mannaccia noi, non accadrà mai più, altro che fascismo, dice, mi pare di assistere alle purghe staliniane. Grillo non ha alcun diritto di sospendere nessuno, soprattutto chi è stato eletto in maniera democratica. È vero quel che dice, avviene la stessa cosa in PD e PDL in maniera privata, senza dare voce in capitolo a tutti i parlamentari, ma solo a pochi oligarchi. E sono d'accordo. E altri ascoltatori alla 349-238-6666, Mario da Novara, che dice che sono in malafede perché le interpretazioni le facciamo noi, le amministrative sono un mondo a sé. Ecco, dice: Confindustria odia il Movimento 5 Stelle, lei se ne fa voce. Ecco il complotto, diciamo, che va in scena sulle frequenze di Radio 24, il complotto. Se un mister mette fuori un giocatore è un fascista, Daniele, la colpa del casino del Movimento 5 Stelle. Eccoci qua, Patrizio da Pistoia, e solo dei media di destra e di sinistra. Caro Patrizio, un altro complotto, cioè le teorie dei complotti. Il cambiamento deve nascere da ciascuno di noi, non essere affidato a uno o a pochi, dice Lidia. Disinnescare il Movimento 5 Stelle è il primo obiettivo del PD e del PDL. Sono state messe in campo le corazzate dell'informazione e questo è il risultato. come giornalista sarei interessato per sapere i nomi dei 101 e se qualcuno di quelli che si è trovato un bel posto da sottosegretario, e non stiamo parlando di libertà di stampa. Un altro ascoltatore dice: se fatti giornalisti dovresti notare che PD e PDL hanno cacciato decine di politici e di dirigenti, ma non ne parlate, ne stiamo parlando. Nel PDL con Berlusca c'è democrazia, non penso, rivedi il tuo discorso. E chi mi ha detto niente? Cioè, io sto parlando del Movimento 5 Stelle, il giorno in cui parleremo del PDL o che Berlusconi caccia via qualcuno, diremo la stessa cosa. E a me sembra strano che Grillo non avesse mai messo in conto la debacle del suo movimento. In altre parole, sapeva di non saper gestire un movimento così variegato. Dice Giuseppe: il Movimento 5 Stelle, dice Francesco, non sa comunicare e purtroppo, peccato, è destinato a finire. 349-238-6666. Orietta dice: seguo con interesse la politica e i temi sociali, ma come possiamo seguire un movimento che non ha regole nello statuto, che mira solo a demolire? Margherita parla di volgarità di Grillo, disgustosa e inaccettabile. Margherita, che ha fatto 349-238-6666. Gillo, credo da Como, dice: però Fini se n'è andato, però. E infatti probabilmente altri, come avete visto, se ne sono andati e sono andati a formare all'interno del cosiddetto gruppo misto. E va bene, questi sono i vostri SMS. Nicola dice che ti fanno le pulci anche a voi. A voi chi? Cioè, io sono un giornalista d'inchiesta, diciamo, alla mattina quando mi guardo allo specchio sono abbastanza contento, altri probabilmente molto meno. Domani alla stessa ora su Radio 24.